Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water. Hope it don't rain all day. Le tasse che continuano ad andare giù. Leggo di qualche autorevole ex presidente del Consiglio che sostiene che le tasse non siano diminuite, con buona pace del presidente Monti, che invece ricordiamo tutti per altro tipo di segno di fronte alla pressione fiscale. Se non ci sono altre cose, con questa bella... Era una domanda retorica, abbiamo fatto 8 risposte, quindi la ringrazio perché lei ci ha tentato, però non essendoci altre cose, all'8ª domanda, anche perché poi va a fare Matteo risponde, quindi vado a disintermediare un po'. Andiamo avanti. Frantuma Pallo, che credo sia un nome particolarmente significativo, sicuramente un nome e cognome vero, dice: se invece di ingrassare i conti in banca dei ricchi non facciamo respirare un po' i meno abbienti? Buona idea, Frantuma Palla. Per esempio, potremmo dare 80 euro a quelli che guadagnano meno di 1500 euro, come ti sembra? Ecco, l'abbiamo fatto. A me fanno ridere quelli che prima dicono che gli 80 euro sono una mancia elettorale e poi dicono che bisogna fare una misura di sostegno al reddito. L'hanno presa 10 milioni di persone. Ho creduto troppo in me e ho pensato poco a noi. È tornato rispolverato nettamente per la campagna referendaria il Matteo risponde. Vuota le mani, rispondi, dove sei, con chi vai, chi si prende la mia voglia di te, rispondi. Ebbene sì, signori, meno quanto manca, meno 4, dai, tenete duro, rispondi. Tenete duro, meno 4, fai vedere, martedì conta, sì, 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, altro che 4, sabato 5, meno 5. Forse se conta anche la domenica è meno 6 a sto punto, però la domenica si vota almeno. No, la campagna elettorale, effettivamente, sabato non conta perché non c'è la campagna elettorale. Quindi meno 4, dai, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, meno 4. Su. Allora, dal referendum, signore e signori, 30-50 euro ai pensionati, questo è l'ultimo annuncio di Renzi, di aumento alle pensioni basse. E, ma che ci frega del referendum, signori? L'Apo Elkan è la notizia. L'Apo Elkan è la notizia, non è sui giornali perché la notizia si è diffusa nella notte. L'Apo Elkan, voglio subito convocare i miei ospiti per capire se sanno tutto, li voglio interrogare. Intanto il direttore di oggi, Umberto Brindani. Umberto, buongiorno. Buongiorno. L'Apo Elkan è la notizia, tu sai qualcosa? Vedo. Ma ragazzi, simulato sequestro, arrestato. Ma ragazzi, intanto voglio salutare insieme a Umberto Brindani Chicco Testa. Come stai, Chicco? La palla sulla traversa, ecco, e poi commentato, grazie. E ce l'arriva di Massimo Leone, prima toccato Ritoni, poi una deviazione, poi Simeone, cioè. Comincia ad attivare a stiamo arrivando, caro Chicco, stiamo arrivando, stiamo arrivando, le truppe rossonere, le truppe vedremo. Signori, Lapo Elkan pare ne abbia combinata un'altra delle sue, pare, raccontano tre giornali americani, avere passato una notte con una escort. No, non ci credo. O meglio, un weekend con una escort e poi avendo finito i 10 soldi. Pare che abbia chiamato la propria famiglia dicendo mi servono $10,000 perché c'è una donna che mi tiene sequestrato e io non riesco contro la mia volontà a uscire da questa casa. E quindi è stato arrestato e poi rilasciato subito per simulazione di sequestro dopo due notti tra escort e droga, così dicono i giornali americani. L'apertura di tutti i siti in questo momento. Vabè. Niente, ve la fornisco così, non è che c'è da commentare. È incredibile. È incredibile, dici? È più o meno come il campionato del Milan. Insomma, questo... Chi se lo aspettava? Caro direttore, chi se lo aspettava? Questo qua... Insomma, purtroppo è recidivo il buon Lapo. Non è come dice Chicco Testa, così incredibile. Purtroppo è abbastanza credibile. Scusi, direttore, sono d'accordo con lei, però una cosa di questo genere, cioè fingere un sequestro per farsi mandare i soldi alla famiglia, non è male. Effettivamente piuttosto originale, lo riconosco. ma infatti è bellissimo, perché pare che proprio ha chiamato la famiglia dicendo mi servono $10,000, c'è una che mi tiene sequestrato, allora c'è un appuntamento, ma uno della famiglia però chiama la polizia di New York, succede a New York, e vanno all'appuntamento, arrivano la escort e la Poelkan, e la polizia ci mette un secondo a capire che non la sta tenendo sequestrata, ma insomma il rapporto è un po' più intimo tra i due, e quindi scatta la denuncia perché ha riportato un falso sequestro. Simulazione di sequestro. Va bene, insomma. Alle 6:35 minuti vi accolgo così. Dai, apriamo il Parlamento e adesso parliamo del referendum. Oh, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, Forza, gente, accorrete al Parlamento. Allora, qua c'è Chicco Testa, ma Chicco Testa è per il sì, insomma, lo possiamo dire in maniera chiara. Chicco Testa. Perché per il sì, Chicco Testa? Perché sei per il sì? Ma non lo so, perché mi sembra una riforma attesa da tempo, utile, non vedo motivi per votare no. Ma questa cosa di dire, perché attenzione, adesso si sparge una nuova notizia, che è questa sui giornali: anche se vince il sì, Renzi sarebbe pronto a dimettersi, cioè a dire, andare da Mattarella a dire il compito per cui è nato questo governo, cioè fare una riforma istituzionale, è compiuto, e quindi rimetto il mandato. Ti pare una soluzione credibile? No, è un'ipotesi che potrebbe avere una certa ragionevolezza. Evidentemente in questo caso le dimissioni sarebbero fatte per vedersi poi riconfermato l'incarico da Mattarella, e diciamo, come dire, è una ripartenza, per usare un linguaggio sacchiano, a te caro, ecco, no? Ecco. Oppure per andare a votare. Oppure per andare a votare, ma non credo, perché sai, bisogna sciogliere il problema dell'Italicum, eccetera eccetera. Difatti si dice che sia pronta anche una legge elettorale sempre maggioritaria, ma un po' diversa. No, quanto piuttosto, come dire, tirare un lungo respiro per fare gli ultimi 6 mesi, un anno di legislatura. Non si sa, un Brindani, aiutaci tu che osservi la politica con un po' il distacco giusto per fare... Sì, ma sono un po' in imbarazzo perché adesso ti verranno a prendere i carabinieri della par condicio, perché sono sì anch'io, quindi no. va benissimo, pare per la par condicio, non lo so, pare che dovremmo un po' equilibrare, quindi va bene, io non dico niente ovviamente perché io c'è la par condicio, dite quello che volete. In realtà c'è un'area di rimonta del sì che non so quanto sia poi alimentata in realtà dai media e da Renzi stesso, no? E mi ricorda un po' quello che è successo con la Brexit, con Trump, no? Sì, a un certo punto adesso si stanno ribaltando le cose. C'è quasi, come dire, una convinzione diffusa che si può vincere. Tant'è vero, come dicevi giustamente tu, si parla del fatto che cosa farà Renzi se vince? Sì, una ipotesi che fino a due settimane fa era campata per aria. Esatto. No? E invece no. E poi... D'altra parte tutto è possibile, visto che anche l'Inter ha vinto ieri sera. Quindi... Ma no, ma infatti sono cose abbastanza incredibili. Alessandro Milan è così gentile da convocarmi ogni... giorno dopo ogni partita dell'Inter. L'ho convocato anche dopo il derby, sapendo e con certezza, derby che è finito 2-1, d'altronde lo sappiamo tutti, è finito 2-1 nonostante un tentativo estremo dell'Inter di portare pure Andano vicino all'area di rigore, una roba vergognosa che non è servita. No, Brindani, è finita così. Io ho spento al 93esimo, o no? Non è finita così? Tu riscrivi la storia. Faccio la post verità. Questa è l'ora della post verità. La bufala. Allora, ci sono queste ipotesi che Renzi si possa dimettere anche con la vittoria del sì, oltre che con la vittoria del no a questo punto, cioè che si possa dimettere in tutti i casi. In realtà, se posso dire, io credo che Renzi si stia preparando a una vittoria del no di misura, perché questo per me, secondo me per lui sarebbe l'ideale. Cioè sì, perché a quel punto calcolerebbe, lui pare che dice, se non so, mettiamo una cifra a caso, il 45% di sì li iscrive quasi tutti a lui. Mentre dall'altra parte c'è l'accozzaglia. No? L'accozzaglia, ecco. Potrebbe essere un calcolo, cioè Chico Testa, a dire se il 45% per dire vota sì, quelli sono potenzialmente quelli che se io andassi alle elezioni potrei portarmi a casa. Porta a casa il 45% per alle elezioni, questo lo escludo completamente. E certamente in un qualche modo Brindani ha ragione, cioè in un qualche modo Renzi appare comunque... uno dei pilastri del sistema politico attuale. Tant'è vero che molti sostenitori del no si affannano a dire comunque si vota sulla Costituzione, non sul governo, quindi Renzi deve restare. Lo dice Berlusconi, lo dice per certi aspetti anche D'Alema, lo dicono in molti, no? E quelli che non lo dicono, che dicono che se ne deve andare, però non sanno rispondere alla domanda. Sì. Se se ne va, che governo si fa in un qualche modo per fare quello che va fatto, perché se non viene abolito il Senato, cioè se non viene modificato il Senato come modificato dalla riforma costituzionale, bisogna trovare una legge elettorale, o si cambia la Camera o si cambia il Senato, non è che si può andare a votare con un maggioritario da una parte e un proporzionale dall'altra parte. Io una cosa invece che non ho capito, poi non c'è lo la so. Legge di stabilità da fare, insomma, tutto il resto. Nessuno, pochi vogliono una fase di totale instabilità. Sì, però io, ecco, su questa instabilità io una cosa che non capisco è questo terrore che si è sparso, le borse già che tremano, il Financial Times che dice 8 banche falliscono, a parte che secondo me se le banche devono fallire, perché devono fallire, dovrebbero fallire. Certo, c'è tutta una questione che non è facile dire facciamo fallire una banca e poi i soldi delle persone che hanno i soldi in banca, che succede? Però ecco, questa cosa anche che ci guardano da Londra, Brindani, ci guarda da Londra, Financial Times ha scritto che falliscono le banche, 8 banche, l'uscita dall'euro, scenari apocalittici, le cavallette. Non lo so, Brindani, attento a uscire di casa lunedì 5 dicembre. Sì. Sai, Financial Times adesso è della Fiat, quindi bisogna stare attenti a quello che scrive. Ha detto Fiat, io subito andavo alla mia apertura, vabbè, niente. Però ieri devo dire, mi ha fatto ridere qualche GR che diceva che le borse di tutto il mondo sono andate giù. Sì. Per il referendum italiano. Tutto il mondo. In Australia guardano al referendum italiano e si chiedono: ci sarà questo cambio della Costituzione, sì o no? E si interrogano. Sicuro. No, sei. Purtroppo, nelle prese di posizione inglesi in questo momento c'è sicuramente un po' di malizia, no? L'Inghilterra è un po' sotto scacco per il voto sulla Brexit, che ha già portato danni economici importanti in Inghilterra, a cominciare dalla svalutazione della sterlina, che è stata importante. E quindi c'è un po' di malizia, un po' di forse di risentimento, eccetera, eccetera. Detto questo, non c'è dubbio che tutta l'area euro viva un momento di grandissima difficoltà, incapacità di concordare politiche attive, poi c'è il trumpismo. Non oso nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere se Trump dicesse: sentite, mi sono stufato, io forse nella NATO ci sto, ma di soldi non ne metto più, e quindi sì, metteteli voi, no? No, pare che la spesa militare degli Stati Uniti sia intorno al 3% del PIL, la nostra è sotto l'1%, tanto per dire, no? E quindi diciamo sicuramente un voto negativo in Italia, come dire, accentuerebbe questo stato di difficoltà generale della nostra Europa. In tutto questo io non vorrei tornare al calcio, caro Umberto Brindani, anche perché te di questo settore rossonero te ne può fregare di meno, ma tu hai capito, a Brindani per chi tiene? Brindani è interista, per quello, cioè, è interista, vabbè, cerchiamo di sostenerlo un po', dai, Chicco, diciamo, dai. Sì. Su, dai, ieri avete vinto, dai, su. Grazie per la solidarietà, grazie per la comprensione. Ecco, Berlusconi, tu hai capito Berlusconi? Sicuramente neanche lui ha capito. Ha detto: dopo il 4 dicembre dirò che farò. È andato da Bianca Berlinguer, ha litigato, ha detto le solite cose. Il Milan forse non lo vendo, i cinesi se non lo vogliono me lo ripeto. Vabbè, Berlusconi, adesso poi ci aiuti a decrittarlo. Aspetta, senti qua Berlusconi. No, non può andare così. Non può andare avanti così questa intervista. O lei mi lascia il tempo di rispondere su cose serie, oppure è inutile che facciamo questa intervista. Mi alzo e me ne vado. Mancano 14 minuti. Allora io me ne vado. No, ma non se ne vada, ma le devo fare. Ma non è possibile che lei non mi lasci rispondere su cose serie. Va bene, questo Berlusconi. E poi sul Milan cos'è che dice? Sono diventato presidente del Milan comprando il 100% delle azioni. Adesso privarmene è sicuramente un grande sacrificio. Vorrà dire che se questi capitalisti cinesi non dovessero concludere la negoziazione, non lo possiamo lasciare senza nessuno. Ma certo. Da Barbarella d'Urso, Brindani, il clima era un po' più cordiale, devo dire, che da Bianca Berlinguer. Comunque, guarda, nel 2011, quando Berlusconi fu fatto fuori, diciamo, io feci la copertina dell'Oggi dal titolo "Non è un addio ma un arrivederci". Questo è il 66esimo ritorno in campo di Berlusconi, perché Berlusconi, se sta bene in salute, c'è solo lui. Ma ho capito, ma adesso io con tutto... No, e ti do un indizio di calcistico. Cioè lui si è messo a dire a Montella dove deve giocare Suso. Infatti, esatto. Giusto? Questo è il segnale principale del fatto che Berlusconi è tornato pienamente in combattivo, campo, anche in politica. Cioè stai dicendo che se Suso in questo momento fa il fenomeno è merito di Silvio Berlusconi? No, deve giocare di punta. Si è rimesso a dettare la formazione. Io segnalo che dopo l'intervista Barbara D'Urso è andato al San Raffaele ospedale per dei controlli, per carità di routine. Segnalo che ha 80 anni e che riduce anche una delicata operazione al cuore. Ma comunque dopo il traffico ci dirà anche Chicco Testa che succede a Silvio Berlusconi. Lui lo conosce, lui frequenta i potenti. Chicco Testa, Chiccone, tra poco. Manda il traffico. Traffico. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Financial Times. Se vince il no, a rischio 6 banche in Italia. Scusate, ma se non si faceva il referendum, queste banche erano lo stesso a rischio? Milan, perché e cioè perché Fidel Castro? Per un semplice motivo, perché il dittatore di sinistra è intellettualmente più accettabile del dittatore di destra. La situazione italiana è presto detto, è grave ma non è seria. Chiamatela e concludo, dottoressa Nunziata. No, ma io non chiamatela voglio tagliare. Bancocrazia, dato che le riforme le impone di fatto la JP Morgan. Chiamatela Renzicrazia, chiamatela Bibinocrazia, chiamatela Partitocrazia, chiamatela frittura di pescecrazia, dato che il governatore Di De Luca oggi si sta comprando i voti. Abbiamo fatto. Però non la chiamate democrazia. Battista del 5 Stelle da Lucia Annunziata. Tu, caro Chicco Testa, che frequenti i potenti, appunto. La Poelcan, secondo te qual è il... No, scherzo, scherzo. Silvio Berlusconi, che fa Silvio Berlusconi? Come lo vedi? Beh, Silvio Berlusconi sta vivendo la sua 50esima giovinezza, diciamo così, sì. No? Vede la possibilità di, come direbbe lui, tornare in campo. Se vincesse il no, secondo me è pronto ad offrire una sponda a Renzi, dicendo ok, tranquillo, ti sostengo io. Credo che sia pentito amaramente di aver fatto un errore tremendo all'epoca delle elezioni di Mattarella, opponendosi alle elezioni di un presidente moderato, sì. Mite, tranquillo, che poi lo ha rotto il famoso patto del Nazareno, sì. Eccetera eccetera. Cioè, pentito di aver rotto il patto di Nazareno per questo? Secondo me assolutamente vorrebbe sì, mantenere il patto di Nazareno. Tra l'altro su una sciocchezza, perché diciamo, sai, se Renzi avesse voluto eleggere Bertinotti come Presidente della Repubblica, capisco, ma insomma Mattarella, un moderato, tranquillo, eccetera, eccetera. E allora sfoggia tutte le sue armi, no? Per di cui il Milan, diciamo, è forse una delle armi di punta, no? Sì, in qualche modo. Sì, in questo momento Suso, d'altronde, sì, di punta. Non so, insomma, dire, guardate che io potrei restare al tengo, Milan. Ma adesso, dai. Sì, ma dai, ma non sembra tutta una roba, un teatrino? Non lo so. Brindani, abbi pietà tua, anche da interista, fai qualcosa. Cioè, non so. Ma tu vorresti i cinesi, Alessandro? Ma non è che vorrei i cinesi, vorrei un po' più di... Chiarezza. Cioè, se uno dice una cosa, fa una cosa. Adesso non è che abbia portato benissimo all'Inter venderla prima agli indonesiani, poi per il momento ai cinesi, non lo so. Però vorrei un po' più di chiarezza, non lo so. Questa cosa di dire ci sono i soldi, prima che abbiamo preso il thailandese, poi era tutta una farsa, poi adesso i cinesi, forse è una burletta, non lo so, mi sembra... Vabbè. C'è un po' di confusione, effettivamente, perfettamente ragione tu e nessuno ha capito bene che cosa succederà veramente. Forse non lo sa neanche lo stesso Berlusconi, non lo so. Però vorrei chiedere questo, domani che spazio avrà Fidel Castro su Oggi? Perché a me effettivamente un po' mi interrogo da giorni, come hanno detto anche la nostra segreteria e tutti i nostri ascoltatori, la figura di Fidel Castro, di cui si deve dire sempre, ma però... Insomma, un rivoluzionario, ho capito. Brindani, come dice il nostro ascoltatore, è culturalmente più accettato un dittatore di sinistra rispetto a un dittatore di destra? Ma guarda, io penso che a questo punto di Fidel Castro si è parlato anche troppo, insomma, come sempre, con lui si chiude il Novecento, cioè l'ultimo dei grandi leader del Novecento, consegnato alla storia, ognuno la pensi come vuole. Io dico, mi sono occupato, abbiamo un intervento molto bello di un collega che è stato per molti anni corrispondente dell'Unità da L'Avana e che ci racconta della visita. Chi è questo? Giorgio Oldrini. Ah, Giorgio Oldrini, Giorgio Oldrini. Poi è stato anche sindaco di Giovanni, no? Ah, certo, della mia città, ma certo. E lui tra gli anni 70 e 80 fu corrispondente dell'Unità da Cuba, tra l'altro fece parte della delegazione con Berlinguer che visitò l'isola e incontrò Fidel Castro. Una cosa carina è che a un certo punto poi gli chiesero a Fidel Castro del suo incontro con Gina Lollobrigida, perché ci fu questa liaison, e Fidel Castro alzò la mano destra e disse: parola di gentiluomo, non è successo niente. Questo si sa. E va bene, insomma, tu, Chicco, che dici, da uomo che insomma non pensa che Fidel Castro veda il capitalismo, la finanza, l'economia, cosa direbbe oggi Fidel Castro, anche perché gli ultimi anni erano un po' di questa globalizzazione, di un Chicco Testa, no? Che fa business. Vabbè, allora, la vita di Fidel Castro va nettamente divisa in due fasi, diciamo, no? C'è la fase come dire, romantica dei guerriglieri Barbudos che prendono il potere a Cuba, circondati da quest'aurea di romanticismo, di giovinezza e di liberazione, no? E quello non è un Castro comunista, è un Castro, tanto è vero che viene ricevuto da Nixon, eccetera, eccetera, tranquillamente, e una seconda fase